Riti di rinnovamento e riti di primavera. L'interesse dei nostri antenati per la nascita, o più esattamente la rinascita della vita, contribuisce a spiegare le frequenti rappresentazioni della vagina nelle grotte sacre e anche come mai troviamo immagini del fallo del pene eretto in queste grotte. Ovviamente tali immagini non erano collegate alla caccia. Una spiegazione di gran lunga più credibile è che raffiguravano storie basate sulle osservazioni estremamente attente dei nostri antenati dei ritmi della natura. Come nota Marsh Encke, le loro osservazioni erano sorprendentemente scientifiche nell'attenzione per il dettaglio e nella precisione matematica. E come illustra la mazza di Montgodier, tali immagini assai probabilmente raffiguravano anche scene di significato mitico associate a riti che celebravano il ritorno ciclico della primavera e quindi il periodico rinnovarsi della vita in tutte le sue forme, vegetale, animale e umana. Probabilmente non conosceremo mai l'esatta natura di questi antichi riti di primavera, ma risulta evidente dalle tante coppie di animali presenti nell'arte paleolitica che i nostri antenati erano impressionati dall'esistenza dei due sessi in molte specie. Come dice Leroy-Gourin, senza alcun dubbio conoscevano la divisione del mondo animale-umano in metà complementari e immaginavano che era l'unione di queste due metà a governare l'economia degli esseri viventi. A differenza di quanto accade a noi, quelle popolazioni probabilmente non videro maschio e femmine come due creature che si confrontano, ma piuttosto che si fondono in una sacra unione. Per la verità, è molto possibile che nella nostra preistoria si svolgessero riti sacri in cui predominava l'elemento erotico nelle occasioni religiose importanti, come il ritorno della primavera all'inizio di maggio, quando l'unione della femmina e del maschio, o dell'uomo e della donna, veniva celebrata come epifania o sacra manifestazione dei misteriosi poteri che danno e mantengono la vita. Baso questa conclusione su un certo numero di elementi. Uno di essi è che durante il Paleolitico la sessualità e la rinascita della natura in primavera sono fortemente connessi nell'immaginario religioso e sappiamo che simboli e miti religiosi si esprimono spesso per mezzo di riti religiosi. Un secondo elemento è che il rito erotico che gli studiosi chiamano matrimonio sacro è un tema ricorrente nella più tarda arte religiosa del Neolitico e dell'era del bronzo e sopravvive perfino in un'ampia varietà di forme in tradizioni mistiche molto più tarde. Un terzo elemento è costituito dalle tracce di tali tradizioni, che si rilevano in molte note feste popolari europee. In talune regioni, lungo tutto il XIX e parte del XX secolo, durante le quali giovani donne e uomini andavano nei campi a far l'amore il giorno della festa di maggio per celebrare il ritorno della primavera. Siccome molti dei siti del Paleolitico e del Neolitico in cui sono state rinvenute immagini sessuali sacre si trovano in Europa, non è improbabile che queste usanze, seppur in forme indubbiamente già molto modificate, risalissero a tempi antichissimi. Per certo, risalgono a un'epoca anteriore all'introduzione del cristianesimo in Europa, a prima che la Chiesa prendesse posizione contro il piacere sessuale. Sappiamo infatti che queste persistenti usanze pagane erano abominevoli agli occhi degli uomini di Dio, secondo i quali la salvezza viene dalla sofferenza fisica e non dal piacere del corpo, e che talvolta dormivano su letti di chiodi, indossavano un saio di crine e si flagellavano per farsi più vicini al loro Dio flagellato e crocifisso. Tuttavia, per i nostri antenati preistorici, per i quali il sesso era parte integrante dell'ordine cosmico e il corpo della donna non era, come proclamava la Chiesa medievale, la fonte del peccato, della carne, ma piuttosto un attributo della grande dea, i riti erotici dovevano avere un significato assai diverso. Per loro i riti erotici dovevano essere rituali di allineamento con i poteri generatori di vita, femminili e maschili, e del cosmo, tanto di frequente rappresentati nell'arte paleolitica. Pertanto, per loro la partecipazione ai piaceri del sesso non doveva essere un peccato, ma al contrario, un modo per accostarsi alla dea. Ma desidero a questo punto sottolineare che con il termine dea non intendo nulla di simile alla versione femminile di quanto ci hanno insegnato a considerare come Dio. Le immagini sacre femminili della preistoria, che abbiamo esaminato chiaramente, non rientrano nel concetto tuttora prevalente della divinità intesa come re, signore o padrone del mondo, al quale si deve obbedienza per non incorrere nei suoi terribili castighi. ne rappresenta un'entità incorporea che risiede in un remoto regno celeste. Contrariamente a quanto ci hanno insegnato a considerare divino, ciò che abbiamo esaminato rivela una visione del mondo in cui tutto è spirituale, abitato da spiriti, e il mondo intero è imbevuto di sacro, le piante, gli animali, il sole, la luna, i nostri corpi umani. È in questo senso che la religione preistorica, che considera il mondo in ogni sua parte imbevuto di spirituale o sacro, è stata detta animistica o naturalistica. Ma la religione preistorica era per certo anche antropomorfa, in quanto le immagini umane, in particolare le immagini femminili, erano simboli religiosi importanti, spesso centrali. Voglio anche dire che, non disponendo di documenti scritti del Paleolitico e del Neolitico, non c'è modo di scoprire se usavano il termine dea, anche se troviamo questo termine su documenti scritti appartenenti a più tarde civiltà dell'età del bronzo. Con molta probabilità la parola madre fu ben presto il termine onnicomprensivo usato per descrivere i poteri creativi femminili, che tanto impressionavano i nostri antenati, poiché permeavano e animavano l'universo intero. Ma se le immagini preistoriche antropomorfe si fissano spesso sugli aspetti materni della donna, le raffigurazioni femminili talvolta compaiono nella forma di una donna giovane e di una vecchia, forse l'antica antenata o la creatrice primordiale. Inoltre, talvolta, le immagini femminili inglobano il fallo, come in alcune figurine cicladiche della dea. In un certo numero di sculture ermafrodite o androgine, troviamo un simbolismo ancor più spinto dell'unione sessuale fra femmina e maschio, in questo caso riuniti in uno stesso corpo. E talvolta l'immagine femminile si mescola all'immagine animale, come nelle tante cosiddette dee serpente e dee uccello del Neolitico, il che rafforza la conclusione che il mondo in cui i nostri antenati immaginavano quel che noi consideriamo divino e il mondo in cui ci hanno insegnato a considerarlo sono effettivamente assai differenti. Allo stesso modo c'è una grande differenza fra il significato che avevano per i nostri antenati i riti sessuali sacri con cui devono aver celebrato il ritorno della vita ogni anno, all'inizio della primavera, e il modo in cui ci hanno insegnato a considerare tali questioni. Neanche facendo uno sforzo con la fantasia, le antiche immagini e i riti dell'unione sessuale possono essere paragonati ai rituali sessuali satanici di cui si sente parlare oggi. L'essenza di questi culti sessuali demoniaci è la tortura e talvolta l'uccisione di donne e bambini indifesi. Per contro, l'arte paleolitica non presenta scene di torture né di uccisioni di donne e bambini connesse al sesso o ad altro. Similmente, alludere a questi riti come a osceni culti preistorici della fertilità, come hanno fatto alcuni studiosi, significa farli oggetto di un'interpretazione tardiva e molto limitata. La questione non cambia, anche se le si equipara alle moderne orge sessuali. In realtà, ben lungi dall'essere proibiti, dissoluti e immorali, tali riti dovevano essere socialmente approvati. E piuttosto che abbandoni privati, erano assai probabilmente tesi al bene pubblico e perseguivano addirittura un importante fine religioso, compreso quello che oggi chiameremmo il raggiungimento di una consapevolezza superiore attraverso un senso di unione con il divino. Il mistero del sesso e la celebrazione della vita e del piacere. Ho suggerito che, con molta probabilità, le popolazioni che abitavano l'Europa molte migliaia di anni fa celebravano il ritorno ciclico della vita ogni anno, all'inizio della primavera, con riti religiosi in cui l'unione sessuale del principio femminile e del principio maschile era una forma di sacramento. Ho anche suggerito che queste celebrazioni rituali della rinascita della natura primavera, così come le immagini sessuali che troviamo nell'arte paleolitica, riflettevano una visione della vita e della religione in cui, in contrasto con molte delle nostre immagini religiose, la celebrazione del piacere prende il posto dell'idealizzazione del dolore. In particolare, intendo suggerire che i nostri antenati celebravano il sesso non soltanto in relazione con la nascita e la procreazione, ma anche come fonte misteriosa e in questo senso magica, sia del piacere sia della vita. In altri termini, ipotizzo che miti e riti erotici della preistoria erano non soltanto espressioni della gioia dei nostri antenati e della loro gratitudine verso la dea per il dono della vita, ma anche espressioni di gioia e gratitudine per i doni dell'amore e del piacere, specie per il più intenso dei piaceri fisici, il piacere del sesso. Senza alcun dubbio non è stata questa l'interpretazione convenzionale. Tuttora, alcuni degli studiosi, la cui opera innovatrice offre peraltro un'interpretazione dell'arte preistorica, tendono a mettere l'accento soltanto sul simbolismo legato alla generazione della vita e alla procreazione presente nelle immagini sessuali del Paleolitico. Per esempio, in alcuni passi di The Roots of Civilization, Marsh Henk afferma che le dee del Paleolitico sono non sessuali nel senso attuale del termine. Asserisce che non sono primariamente erotiche né associate all'inseminazione e alla fecondazione. Ci assicura perciò che la vulva era in qualche modo non sessuale, semplicemente un simbolo della rigenerazione periodica della vita. Comunque, Marsh Henk scrive che le immagini della vulva, così come le sculture della Venere o della dea del Paleolitico, molto probabilmente rappresentavano storie e rituali connessi alla copula. In altri termini, lo studioso riconosce che è di sesso che si tratta. Pertanto, alla fine ovviamente ammette che queste immagini abbiano un significato erotico, seppure non nel senso degradato del termine, sinonimo di peccaminoso o pornografico. Sicuramente convengo con Marsh Henk che il modo in cui ci hanno insegnato a considerare il sesso e le donne è molto diverso dalle opinioni dei nostri antenati preistorici. Però desidero puntualizzare che non esistono motivi logici per dissociare la sessualità e il piacere sessuale dal processo della procreazione o della rigenerazione. In realtà, trovo stupefacente che si ipotizzi che le immagini sessuali del Paleolitico non abbiano a che fare con il sesso. Per certo, sessuali sono le immagini degli organi femminili e maschili di cui abbiamo parlato. E presumere che queste popolazioni distinguessero, secondo il dogma cristiano e secondo uomini come la Bebe Reil, tra sesso per il piacere e sesso per la procreazione, non è altro che la proiezione di credenze successive su di un'epoca lontana. Mentre scrivo, mi pare ancora sorprendente che nelle diatribe sulle immagini sessuali antiche si sia accordata così poca attenzione alla questione del piacere sessuale. Ma forse non è il caso di sorprendersi se pensiamo a quanto il nostro retaggio culturale e religioso abbia sempre avversato il piacere e quanto abbia in particolare svilito, addirittura negato il piacere intenso, talvolta estatico del sesso. Intendo insomma affermare che per i nostri antenati sia la vita sia il piacere rientravano nel regno del sacro. In breve, in netto contrasto con i dogmi e il più tardo immaginario religioso che spesso sacralizzano la sofferenza e il dolore, credo che i nostri antenati sacralizzassero il piacere e in particolare il più intenso dei piaceri fisici che ci è dato provare, il piacere dell'estasi sessuale. Sono certa inoltre che l'associazione che si faceva nel Paleolitico tra sesso e doni della natura, in particolare con la condivisione collettiva di quei doni grazie alla rinascita annuale della natura in primavera, avesse radici ancora più remote. In una qualche forma potrebbe risalire alla protostoria, a qualcuno dei primissimi gruppi umani che forse già collegavano il piacere del sesso con la condivisione del cibo attraverso un comportamento ritualizzato che, come si è visto tra gli scimpanzé nani, serviva anche a ridurre la tensione e l'aggressività, incoraggiando invece i vincoli sociali affiliativi. Affermo inoltre qualcosa su cui in altri contesti archeologi, storici dell'arte e mitologi concordano. Nelle società preistoriche non esisteva la distinzione che ci hanno insegnato a fare tra natura e spiritualità, tra religioso, sacro e vita quotidiana, vita sessuale inclusa. E affermo inoltre che se guardiamo all'arte paleolitica come a un tentativo attraverso le immagini mitologiche e i riti religiosi di scandagliare i grandi misteri dell'esistenza umana, possiamo vedere che non era certo unidimensionale. Possiamo allora vedere che l'arte paleolitica, proprio come l'arte religiosa oggi, fu un tentativo di confrontarsi con gli universali interrogativi umani. Da dove veniamo quando nasciamo? Dove andiamo dopo la morte? Perché aspiriamo alla bellezza e all'amore? Che significato ha la sofferenza che dobbiamo sopportare? E, interrogativo forse soprattutto importante, immediato, che cos'è la fonte del piacere che ci è dato provare, di cui ci è dato godere e che cosa si può fare per accrescere il piacere e ridurre la sofferenza. Ma il modo in cui l'arte paleolitica rispose a questi interrogativi rifletteva una visione del mondo che differiva notevolmente da quella della fede giudaico-cristiana. Le popolazioni paleolitiche immaginavano la fonte originaria della vita su questa terra non come un padre divino, ma come una madre divina, come la forza vita che si manifestava in modo tanto imperioso nel corpo femminile. E non pretendevano, come la Bibbia giudaico-cristiana, che nella creazione della vita umana la donna non fosse che un ripensamento. Proprio al contrario, il potere sessuale creativo incarnato nel corpo della donna era per loro uno dei più grandiosi miracoli della natura. Ne è un'impressionante illustrazione la straordinaria figura femminile in rilievo che gli archeologi chiamano la Venere di Lussel, eseguita all'incirca 25.000 anni fa all'ingresso o portale vaginale di una grotta sacra in Francia. Questa dea millenaria non ci fa intendere soltanto che il potere sessuale creativo della donna era oggetto di venerazione, ma indica pure che i cicli mestruali della donna, come i cicli della luna, del sole e delle stagioni, erano visti come manifestazioni mirabili dei poteri dell'universo di dare e nutrire la vita. In altri termini, come accade nelle società tribali contemporanee, per esempio i Bambuti, più improntata alla partnership, piuttosto che una maledizione, il sangue mestruale era probabilmente visto come una benedizione, come un ulteriore dono miracoloso della dea. Come altre idee del Paleolitico, in cui è messo in rilievo il potere sessuale della donna, la Venere di Lussel ha fianchi larghi e ventre prominente, forse è addirittura incinta. E come la più tarda padrona degli animali o signora delle bestie, come la dea greca Artemide e la dea romana Diana, è associata alla luna. Nella mano destra tiene una mezzaluna su cui sono incise 13 tacche, il numero dei cicli lunari nell'arco dell'anno, e l'altra mano come a informarci del rapporto intercorrente tra i cicli della luna e i cicli mestruali della donna, indica la vagina. Probabilmente non conosceremo mai l'esatta natura dei riti che si svolgevano nell'antica grotta sacra di Lussel, ma, come hanno osservato Elinor Gedon e altri studiosi, queste cerimonie preistoriche avevano indubbiamente a che fare con i cicli mestruali della donna e i cicli lunari. Come la neolitica padrona degli animali e le più tarde Artemide e Diana, la Venere di Lussel era probabilmente anche la protettrice delle giovani e delle partorienti, e come loro erano indubbiamente la Era indubbiamente la protagonista di miti importanti che venivano ripresi in forma rituale nell'antico santuario. Forse queste storie venivano narrate durante i riti della pubertà che si svolgevano per le ragazze o i riti che si svolgevano per le donne vicine al parto. Forse rientravano in rituali che coinvolgevano l'intera comunità. In ogni caso, erano chiaramente associati ai ritmi della natura e alla rinascita ciclica della vita, e riconoscevano che la sessualità delle donne come degli uomini ha un ruolo importante nel grande dramma ciclico della nascita, del sesso, della morte e, secondo il loro immaginario mitico, della rinascita. Parlo di sessualità delle donne e degli uomini non soltanto perché, come già notato, troviamo tante rappresentazioni di animali maschi e femmine in coppia nelle scene connesse alla nascita di una nuova vita in primavera, ma anche perché, in alcune figurazioni paleolitiche, gli organi sessuali maschili e femminili sono rappresentati insieme. Per esempio, in un'incisione su pietra rinvenuta nella grotta di Istoritz, nei Bassi Pirenei, che risale all'incirca al 20.000 a.C., vediamo l'immagine di un fallo all'interno di una vagina. Come sempre nell'arte rupestre, che nei nostri termini è arte sacra, ciò indicherebbe non solamente la sacralità connessa al lato del coito, ma anche una comprensione del ruolo del rapporto sessuale nella nascita, o nei loro termini, rinascita della vita. Nell'arte paleolitica esistono anche rilievi e incisioni di animali, dati di corna e zoccoli che stanno sopra delle femmine incinte e di falli e vagine in altre combinazioni. Inoltre, la conclusione che la popolazione del Paleolitico comprendeva molto più di quanto possiamo immaginare i processi biologici della procreazione trova un'ulteriore conferma nello straordinario sistema da esso elaborato per il computo delle sequenze temporali, che gli archeologi solevano ignorare o tralasciare in quanto segni incomprensibili. Fatto particolarmente significativo, grazie a quei calcoli, crearono un calendario lunare molto sofisticato, con ampie notazioni delle molte fasi lunari che, come abbiamo visto, parlano della Venere di Lussel, erano molto probabilmente correlate ai cicli mestruali delle donne. Il matrimonio sacro e i cicli della nascita, della morte e della rigenerazione. L'identificazione del sesso, in particolare del potere creativo della donna, quale elemento centrale nei cicli della nascita, della morte e della rigenerazione, è pure un tema di notevole portata nella fase successiva dell'evoluzione culturale, che nella preistoria dell'Occidente inizia approssimativamente 10.000 anni fa con il Neolitico. In questo periodo i nostri antenati avviarono sistematicamente una pratica che è forse la tecnologia più importante inventata dall'umanità: l'agricoltura. Come sottolinea l'archeologo britannico James Mellor, si riscontra una notevole continuità nelle immagini religiose nel passaggio dal Paleolitico al Neolitico. Infatti, ritroviamo statuette femminili che rappresentano i poteri dell'universo di dare e mantenere la vita. E ritroviamo anche l'accoppiamento dei principi femminile e maschile. Tale accoppiamento assume talvolta forme che a prima vista ci paiono bizzarre. Il principio maschile, nel Neolitico come nel Paleolitico, è infatti ancora di frequente simboleggiato da un animale cornuto. Per esempio, a Chattahoochee, il più grande sito agricolo neolitico finora scoperto, vediamo un succedersi di scene in cui la dea compare assieme a raffigurazioni di corno di toro, bucrani o di tori. Come scrive Mellart, i bucrani rappresentavano probabilmente il figlio o lo sposo della grande dea, in quanto campione della potenza sessuale maschile. E osserva pure che ci troviamo di fronte a una convenzione artistica che adombra immagini più tarde del dio Toro, venerato in epoca storica, come vedremo alla fine di questo capitolo. Una delle più affascinanti opere d'arte rinvenute presso Chattahoochee è il bassorilievo con una donna e un uomo abbracciati, accanto ai quali si vede una donna con un bambino tra le braccia. Come scrive Mellar, potrebbe trattarsi di una delle più antiche rappresentazioni di ierogamia, il matrimonio sacro, rito dell'unione sessuale sacra che, come già notato, sopravvisse come un importante tema mitico fino all'epoca storica. Ancora più interessante è la seconda parte di questa piastra neolitica, che potrebbe essere la lontana anticipazione di un tema che diventa poi fondamentale in tarde epoche storiche: le migliaia di immagini della Madonna con bambino, che popolano l'arte cristiana europea dal significato peraltro assai diverso. Infatti, in quella piastra vecchia di 8.000 anni, il bambino è ovviamente il frutto dell'unione sessuale della donna e dell'uomo che sta accanto alla madre e al bambino, e non di una divina fecondazione che esclude il rapporto sessuale. Il fregio rappresenta anche qualcosa di simile a quella che potremmo oggi definire una lezione di educazione sessuale e prova che i nostri antenati del Neolitico comprendevano perfettamente il collegamento esistente tra rapporto sessuale e nascita. Al di là di tutto ciò, costituisce un altro anello della catena, a dimostrazione che nel Neolitico, come nel Paleolitico, il sesso era un importante tema religioso. Una scultura neolitica ancora più esplicitamente sessuale fu scoperta nei pressi di Kashuarele, nei Balcani orientali, all'interno dell'area che l'archeologa Maria Gimbutas definisce della civiltà della vecchia Europa. Come gli amanti abbracciati di Çatalhöyük, i cosiddetti amanti di Gumelnita, ci parlano di quelle che probabilmente furono credenze e miti e rituali ampiamente condivisi in molti dei territori che si estendono attorno al Mediterraneo. Questa scultura, come il fregio di Çatalhöyük, raffigura una donna e un uomo nel momento dell'amplesso. La figura femminile, probabilmente una rappresentazione della dea o una sacerdotessa, presenta un grande triangolo pubico stilizzato. Il maschio è itifallico, come gli archeologi definiscono un maschio con il pene in erezione. I due personaggi sono entrambi mascherati, il che indica che sono protagonisti di un dramma rituale o rito. Come scrive Gimbutas, probabilmente l'idea centrale del dramma rituale, il matrimonio sacro, il coito rituale del dio maschio e della dea femmina, si riflette nella nostra scultura di Kashuarele. La presenza del dio itifallico mascherato fa inoltre pensare a una festività in cui si svolge una cerimonia nuziale con il dio che sposa la grande dea. Nella statuetta di Kashuarele è rappresentata non come dea incinta, ma come giovane vergine. È nuda e ha un grande triangolo pubico. Come l'arte delle popolazioni dedite alla raccolta e alla caccia del Paleolitico, l'arte delle popolazioni agricole del Neolitico è ricca di immagini riprese dalla natura: uccelli, verri, serpenti, piante. Le belle ceramiche sono spesso decorate con rappresentazioni stilizzate di onde, acqua, bande serpeggianti, serpenti e, come nel Paleolitico, con delle V, dei disegni a spina di pesce, delle uova cosmiche. Ci sono anche immagini del toro, talvolta, come in una tarda incisione di cucuteni, insieme con altri simboli dei poteri generatori della natura, come l'ape. E come nel Paleolitico, un motivo centrale dell'arte neolitica sia di Çatalhöyük sia della vecchia Europa è il potere sessuale femminile generatore di vita. In effetti, uno dei più importanti reperti rinvenuti a Çatalhöyük è un'immagine della dea assisa in trono, affiancata da felini, probabilmente due leopardi, e colta nel momento del parto. A Çatalhöyük si trovano inoltre stanze che furono probabilmente templi per il parto, luoghi sacri in cui le donne mortali chiedevano la protezione della dea al momento di dare alla luce le loro creature. Ai templi di Çatalhöyük servono per l'altro estremo ciclo naturale che tanto assorbì l'attenzione dei nostri antenati, la morte. In questi santuari, dove probabilmente si svolgevano riti che esprimevano la speranza e la fede della rinascita dei nostri antenati, troviamo la dea associata degli avvoltoi, connessi anche in epoca storica con il ritorno della vita nel ventre della dea dopo la morte. Pare che queste immagini fossero connesse alla pratica rituale vigente a Çatalhöyük di esporre il morto, lasciato in pasto agli avvoltoi, prima di seppellirne le ossa sotto un giaciglio dei sopravvissuti, forse nella speranza che il suo spirito tornasse in uno dei loro bambini. In altre parole, la morte era per i nostri antenati neolitici, come lo è ancora per noi, un importante tema religioso, e come la maggior parte dei popoli di oggi, anch'essi eseguivano riti religiosi per il defunto. A questo punto ci troviamo ancora una volta di fronte ai problemi interpretativi già esaminati in precedenza, poiché il mancato riconoscimento dell'importanza della donna da parte della maggior parte degli studiosi è servito a oscurare, oltre a quella delle donne, l'importanza del sesso nelle usanze e nei riti della sepoltura preistorici. La questione è esposta in toni appassionati in Death, Women and the Sun, un esauriente studio dei riti della sepoltura nell'Egeo durante il Neolitico e all'inizio dell'Età del Bronzo, condotto dall'archeologa britannica Lucy Goodison. È stato ampiamente documentato che molte delle sepolture cicladiche, minoiche ed egee, i defunti venivano sotterrati in tombe rotonde, con una piccola apertura a oriente verso il sole che sorge. Ma per lo più la letteratura archeologica non offre spiegazioni coerenti del motivo per cui le tombe erano rotonde, né del motivo per cui l'apertura era così inopportunamente piccola. Come pone in rilievo Lucy Goodison, se la tomba era considerata come un ventre per la futura rinascita, aveva senso farla rotonda. E se l'ingresso della tomba era inteso non per la comodità fisica dei vivi, ma per la rinascita spirituale o reale del defunto, aveva altrettanto senso che fosse piccola, poiché simbolicamente era un'apertura vaginale. Come scrive Goodison, questa interpretazione costituirebbe anche a confermare che riti e cerimonie funebri della preistoria erano talvolta di natura sessuale, perché insieme con i segni da cui si deduce che la danza delle sacerdotesse, più specificatamente la danza estatica, faceva parte dei riti funebri preistorici, i segni che provano la pratica dei riti sessuali per il defunto ribadirebbe il pensiero religioso del tempo, che, come scrive Goodison, si interessava all'esito dell'amplesso umano, nonché la credenza allora prevalente, secondo cui esiste una connessione non soltanto tra sesso e nascita, ma anche tra sesso e rinascita. Di conseguenza, la sepoltura in tombe rotonde doveva simboleggiare il ritorno del defunto nel ventre della grande madre, da cui sperava che sarebbe un giorno tornata alla luce dopo i riti funebri intesi appunto a facilitare la rinascita. Nella sua analisi, Goodison contesta un ulteriore aspetto delle interpretazioni precedenti. Ricorda che in molti testi di archeologia e in molti scritti sui miti, le divinità femminili sono quasi invariabilmente associate alla Terra e alla Luna, e soltanto le divinità maschili sono associate al Sole, molto più potente. Per contro, basandosi su un'approfondita analisi dell'arte all'inizio dell'età del bronzo, comprese centinaia di sigilli appartenenti alla civiltà minoica di Creta, Goodison dimostra che in quel lontano periodo il sole fosse anche associato alla femmina e ovviamente tale associazione, pure solitamente ignorata del simbolismo femminile con il sole e in particolare delle divinità femminili con il sole, è evidente anche in più tarde epoche storiche. Ne sono esempi la dea del sole Arina in Anatolia, la dea del sole Amaterasu in Giappone e le divinità egizie Nut e Hathor. Quest'ultima viene ricordata sia come madre sia come figlia di Re, il dio egizio del sole. Come sottolinea Gimbutas, le dee del sole sono ben note anche nella mitologia germanica, baltica e celtica, con il sole ancora una volta associato alla morte e alla rigenerazione. Così anche l'altro rompicapo del piccolo orifizio praticato in molte tombe rotonde egee dalla parte del sole nascente si risolve se, come propone Godison, il sole vivificatore era associato, nel sistema di credenze preistorico, ai poteri generativi di vita della donna. Inoltre, l'associazione di sesso, donna e sole spiegherebbe meglio come mai, come documenta Godison, i simboli solari femminili si ritrovano tanto di frequente nelle tombe preistoriche egee. Simboleggerebbero infatti la rigenerazione o rinascita. Data questa visione della sessualità quale principio animatore dell'universo, non ci sorprende la presenza di tante immagini di donne incinte nell'arte preistorica. Appare invece strana, per non dire bizzarra, vista dalla prospettiva di un sistema di culto incentrato più sul potere di dare la vita che di punire e uccidere. L'assenza virtuale dall'arte delle epoche storiche del corpo femminile durante la gravidanza, se si eccettua qualche vergine ammantata con discrezione, rimasta peraltro incinta senza avere mai avuto rapporti sessuali. Fa anche riflettere sull'assenza del parto nell'arte di epoca storica, in cui invece l'atto di dare la morte, virtualmente assente nell'arte neolitica, è un tema tanto importante e ricorrente. E certamente consente una migliore comprensione del perché all'interno dell'attuale forte ripresa del modello della partnership, donne e uomini stanno ricominciando a sacralizzare l'atto della nascita. Infatti, come vedremo, la creazione di cerimonie per la nascita, necessarie in quanto per lo più le religioni non ne prevedono e in taluni casi, come nell'Antico Testamento, addirittura dicono immonda la puerpera, rientra nell'attuale movimento, che rivendica una visione non soltanto naturale ma anche spirituale del corpo e del sesso. Ci risulta difficile immaginare un'arte in cui siano virtualmente assenti scene di uomini colti nell'atto di uccidere, in cui l'atto di dare la vita è rappresentato come sacro in sculture e dipinti della dea medesima, e in cui, come suggeriscono le sculture del matrimonio sacro di Chatelhook e di Gumelnita, il coito è un rito religioso. Non ci risulta neanche facile immaginare il sangue mestruale come un dono divino, poiché non siamo soliti considerare spirituale il corpo umano e tantomeno il sesso, e ci risulta particolarmente difficile pensare alla sessualità femminile e alla vagina, alla gravidanza, al parto, associandola a una divinità invece che a qualcosa di vergognoso, da evitare in una conversazione educata, figuriamoci nell'arte religiosa. Ma se ci liberiamo almeno in parte delle opinioni prevalenti sulle donne e il sesso, molto di quanto troviamo nell'arte preistorica assume un significato enorme. Vediamo allora che i temi centrali dell'arte religiosa nel Paleolitico e nel Neolitico sono i misteri del sesso, della nascita, della morte e della rigenerazione. Solamente che invece di essere rappresentativi come separati e distinti, con il sesso e la nascita come atti carnali e la morte e la reincarnazione come atti divini di remissione dei nostri peccati, questi elementi fondamentali della vita su questa terra possono essere considerati come un tutt'unico, contemporaneamente naturale e spirituale. Inoltre, se riconosciamo il contenuto sessuale dell'arte preistorica, arriviamo a comprendere meglio il significato e le antiche radici di alcuni dei più antichi scritti noti della cultura occidentale, i famosi inni di Inanna, la dea sumera dell'amore e della procreazione.